Dai su Radio Wombat, questa è Hot Hertz. Radio Wombat, Hot Hertz. E me lo dico da solo, bentornato, visto che faccio la trasmissione in solitaria, bentornato, bentornati anche a voi nel nuovo anno quasi scolastico di Radio Wombat e del programma 8 Hertz, che è fin dagli inizi uno dei programmi in palinsesto di questa radio, radio che cresce sempre di più e da quest'anno, da dopo l'estate, ci sono delle rivoluzioni, ovvero è migliorato qualcosa di tecnico qua, per cui dovreste sentire molto meglio. E fateci sapere, scriveteci su Facebook in bacheca, oh, si sente meglio, si sente peggio, fate schifo, 8 Hertz è magnifico. Questa puntata si chiama That Old Age, perché riguarda un po' una sorta di musica ancestrale un po' passata, riguarda degli strumenti un po' tradizionali, medievali, barocchi, e riguarda ovviamente la musica che di solito faccio ascoltare, che appunto miscela tantissime componenti. 8 Hertz, appunto, un viaggio nella mente, uno stato particolare del cervello che è ricreato appunto dalle onde basse. Non sarà questo il caso delle onde basse, ma insomma è da prendere un po' come metafora di ascolto di un percorso psicopatico fondamentalmente. Iniziamo appunto con Harvestman, che poi vi spiego dopo cos'è e chi è, e buon ascolto. Thank you. questo era Harvest Man, il titolo del brano è The Forest is Our Temple, tratto dall'ultimo ultimissimo disco uscito poco fa, pochissimi mesi fa, che si chiama Music for Megaliths della Neurot. La Neurot Recordings è l'etichetta di Neurosis. Questo perché? Perché Harvest Man è Steve Von Thiel, uno dei progetti di questo tipo. Steve Von Thiel è uno dei due chitarristi cantanti dei Neurosis, che sono un gruppo grossissimo, base, padre di tutti noi per chi ascolta musica potentissima a ritmiche abbastanza lente. E questo è un progetto dove lui, più che altro, più che cantare e suonare come può fare proprio da solista come Steve Von Thiel o come chitarrista nei Neurosis, si diletta con vari tipi di suoni e effetti, dai sintetizzatori ai delay, al Grendel Drone Commander, alla chitarra acustica, ovviamente un po' di voce, ma più che altro in questo pezzo c'è l'ardigardi, ovvero la ghironda. La ghironda è uno strumento di origine medievale, un cordofono a corde strofinate da un disco, praticamente ha una manovella che viene girata, struscia su delle corde e fa dei bordoni, dei droni, come si dice oggi, e poi ha una serie di tasti con i quali uno, il musicante, visto che la puntata è old age, può fare un po' quello che vuole. È uno strumento molto bello, qualcuno dice che è un po' l'origine di una sorta di campionatore o di campionatore a nastro, di delay a nastro. E comunque, insomma, il suono è questo qui, è bello, è quasi simile a un armonium o una corda musa. Collegandoci a questo strumento, cioè continuando a parlare di questo strumento, ci collego i coil, che ormai per chi ci ascolta gli sto facendo venire una testa quadra, che anche loro nei live e anche in qualche disco hanno usato strumenti tradizionali, medievali e oltre, come in questo caso appunto viene usata una ghironda. Il pezzo in questione si chiama Sick Mirrors, che è stato suonato, che è un inedito, che è stato suonato a Bologna al Teatro delle Celebrazioni il 6 aprile del 2002, e si trova anche oltre nel cofanetto spaziale con un sacco di DVD con tutti i live che hanno fatto, anche in una serie di live ufficiali che uscirono. Questo è il live 3. Per cui, insomma, the celestial turns bestial. Basta, perché è partito lui. It's the shaggy god story. I glimpsed behind my shower curtain last night in my hotel, and I saw a very, very heavy thing. I saw the hairy mother of God. Remote viewing. Viewing from a distance. Eyes shut. Shutters in the way. Visiting people far away. Something cold. Follow me, what was seen and what was followed me, what was seen. Ecco, come al solito, te pareva, è andato qualcosa storto e non è finito il brano, però insomma, questo è un esempio di come una ghironda, uno strumento antico e medievale possa suonare, sai, la genialità dei cori in un connotato proprio dei giorni nostri, odierno, contemporaneo, elettronico e sperimentale. E comunque, vabbè, torniamo a noi. Il prossimo gruppo che sentirete si chiamano i Blackbird Realm, che sono un gruppo di Santa Cruz, di californiani, fondati nel 2004 e sono una band particolarissima, folk punk, ma molto punk, soprattutto nei testi che di abbastanza narcoidi. Io ho avuto la fortuna di vederli dal vivo a un festival stupendo che hanno fatto a Salzglacia sulle Dolomiti, ora non mi ricordo il nome, come si chiamava? Non mi viene il nome purtroppo. Comunque un festival bellissimo, senza elettricità, tutto acustico, e loro hanno suonato appunto davanti a questo fuoco che non si spengeva mai neanche sotto la pioggia. E sono molto trascinanti, appunto fanno dei live incredibili, sono tanti, sembrano una banda di punk poi alla fine, ma non solo, anche di streghe, di stregoni. E comunque il pezzo, stavo cercando di ricordarmi come si chiamava il festival, che veramente varrebbe la pena di ricordare, e consiglio a tutti di andare, ma ho un iper mega lapsus, per cui ve lo dirò la settimana prossima. Il pezzo che state per ascoltare è tratto dall'ultimo disco che si chiama Destroying. Il pezzo è Reveil. Loro fanno anche roba molto più veloce, molto più ritmata, però questa è una delle ultime cose che hanno fatto e avevo piacere a farvela sentire. A tra poco. Surrounds her with confusion and a crazy kind of life. avete ascoltato sono gli intensissimi Blackbird Raum, appunto di californiani di Santa Cruz, un po' punk, parecchio punk, anzi, soprattutto nei contenuti, musicalmente affini a anche un generaccio che viene chiamato Gypsy Folk, mi sta un po' Gypsy Punk o Gypsy Folk, non lo so, insomma che non è un po' antipatico definirli così, e usano appunto strumenti di vario genere, da noi anche un pochino più classici. Mi ricordo che un percussionista, una figura di percussionista suonava la grattugia, ovvero un pezzo di metallo fatto a mo' di grattugia, però enorme, tenuto con un corpetto sul corpo e con una roba metallica inserita in un dito, lo strofinava e faceva un po' questi suoni così. Il festival, me lo sono ricordato, quello che me ne stavo parlando prima, si chiama Terra Salvaria, Terra, un po' ladino come festival, e vi consiglio molto di seguire un po' le dinamiche via via negli anni di questa bellissima iniziativa unica veramente secondo me in Italia. Ci fermiamo un attimo e ricordo un po' i social della radio, di Radio Wombat. Il sito ovviamente lo conoscete, ma lo ribadiamo: wombat.noblogs.org. Poi abbiamo il Twitter e il Facebook, sono semplicissimi da trovare, basta che mettete le parole chiave, Radio Wombat Firenze, Radio Wombat Fi, ma ormai credo che basta che mettiate Radio Wombat perché siamo tra le Radio Wombat quelle più grosse. E la mail importante per qualsiasi tipo di proposta e di commento, che si chiama postawombat@insiberia.net, Wombat ovviamente con la W. Potete scrivere anche dei commenti sul sito stesso, cioè nel blog uno ha la possibilità di commentare qualcosa o di aggiungere informazioni volendo, insomma, in modo che sia una cosa costruttiva e veramente più sociale dei social network che abbiamo a disposizione e dei quali insomma non vediamo l'ora che tutta l'impalcatura crolli. Va bene, dopo la piccola polemica e sfamamento sui social, torniamo alla carica con un personaggio che si chiama Joseph Van Wissem. Ad oggi molto conosciuto in Italia solamente per aver suonato insieme a Jarmusch, il regista, per la colonna sonora di Only Lovers Left Alive, ovvero Solo gli amanti sopravvivono. In realtà questo compositore olandese ha fatto tantissimi album e tantissime ricerche. Per esempio, la cosa più grossa che ha fatto, scusate, ovviamente lui è un liutista, per cui suona sia due tipi di liuto, sia il liuto del Rinascimento che il liuto barocco. Non so bene, sono un po' ignorante in materia, non so bene cosa cambi, ma quando lo vidi dal vivo aveva più corde di un liuto normale, molte di più, infatti è molto difficile anche accordarlo. Comunque, per esempio, lui ha scoperto una variante del cantus firmus medievale sul liuto, ovvero qualcosa che ha a che fare alla melodia al contrario di quella che veniva data. Infatti le composizioni potevano essere suonate da in fondo a sinistra a in basso a destra per finire in alto a sinistra, proprio come se fosse uno specchio. Ha fatto lavori di cut-up sul liuto, ha fatto tantissime cose, ha cercato anche di dargli una connotazione moderna. Infatti tra le cose che ha fatto ha tenuto anche varie conferenze, una in particolare da ricordare è stata al Mills College della Cambridge University, proprio era sul tema della liberazione dell'uso. Quindi riappropriamoci dell'uso nella musica anche di oggi, perché ha un suono favoloso e appunto sembra quasi un concertato solamente usando uno strumento unico, un po' come il pianoforte che ha molti range di frequenze. Comunque basta, se non vi annoio, vi metto due pezzi di seguito. Il primo si chiama Sola Grazia, è un po' più Van Vistiano, un po' più classico, diciamo, e il secondo è The Day Is Coming, dove secondo me ha un po' usato su una struttura più pop e più odierne, quindi insomma anche per farvi sentire le due facce di questo compositore. A dopo. bloods. Today, today, today, today. Sun turned to darkness and moon to blood. Today, today, today, today. That's right. Per Luke, li ho visti insieme appunto in una serata che è stata fatta qua a Firenze in un posto particolare insieme ai nostrani Gargamella, che anche loro si divertono sperimentando con strumenti antichi e modernissimi, per cui mi ha ricordato un po' quella serata e questo pezzo, l'atmosfera di Axan, che è un pezzo loro ancora inedito che è stato fatto dal vivo varie volte e qui è stato immortalato in una registrazione che è stata fatta al Rullante Club tanti anni fa, un locale che non c'è più. Si chiama Axan proprio perché oddio, mi sono un attimo perso perché è tratta da un omaggio a un film del 22 di Benjamin Christensen che si chiama proprio Axan. In italiano l'hanno il sottotitolo è La stregoneria attraverso i secoli e parla appunto di streghe, di processi alle streghe e dei riti che facevano, che probabilmente facevano, compivano. Per cui intanto ascoltatevi questa versione live di Axan, ancora inedito, per dei Gargamella. Thank you. Live dei Gargamella, non so se l'Accademia della Brusca mi ha copiato, però ha messo sia i Gargamella che il pezzo, che un altro gruppo che metterò ora, e sono gli Einsturzende Neubauten, gruppo tedesco storico. Tantissimi sono quelli che hanno quella specie di simbolo che è un omino con una testa con un puntino dentro, che in un'intervista a Torino per il trentennale gli fece la domanda di cosa rappresentasse, e Blixa Barger, uno dei fondatori, spiegò che semplicemente era una grafica di una marca di uno shampoo che piacque tanto a loro, per cui lo utilizzarono. E parlare degli Sturzende Neubauten è complicato e lungo, sono quelli più rappresentativi di un certo tipo di industrial, ovvero la parte meno elettronica e più attiva per quanto riguarda l'uso di attrezzi proprio meccanici e di suoni proprio di quasi di fabbriche. Per cui suonavano veramente con tutto, soprattutto nella prima parte della loro carriera. Poi hanno trovato altri linguaggi, si sono avviati sempre di più a una cosa che sta più tra quasi tra la contemporanea, diciamo. E ve li metto semplicemente perché, appunto, parlando di strumenti antichi e particolari, loro non usano strumenti antichi, ma veramente usano, come in questo pezzo, per esempio, tubi delle grondaie che, suonati in un certo modo, con un certo tipo di bacchetta, riescono a fare dei suoni veramente particolari. Il pezzo che vi metto si chiama Three Talks, tra parentesi Devil's Sect, è attratto da Strategies Against Architecture, il terzo volume, che sarebbero delle raccolte, però l'hanno fatte quattro, delle sorte di best of, ma non si possono ridurre a questo genere proprio di compilation, perché raccolgono pezzi dal vivo, brani inediti, e anche sì, pezzi di dischi, ma dei dischi di un certo periodo. Per esempio, questo va dal 91 al 2001. Gli Sturzende sono attivi da proprio i primissimi anni 80, e, se non 79 volendo. E per cui, insomma, qui siamo già in una fase un pochino di una sperimentazione meno rumorosa, ma sempre particolarissima e più che altro fondamentale, secondo me, per la musica di oggi, proprio, anche volendo poppeggiante. Spesso costruiscono delle vere e proprie ballad con recitativi e ospiti, spesso in tedesco, a volte in inglese, a volte in francese. Comunque, vabbè, ascoltatevi il pezzo. Loro sono gli Sturzende Neubauten con Three Talks, che è un pezzo, credo, inedito, perché la discografia è molto ricca, che va tra il 91 e il 2001. Buon ascolto. Thank you. ecco come appunto dei suoni acustici possono diventare elettroacustica, un po' filtrati, un po' giocati in modi differenti, così come possiamo ascoltare nel gruppo che vi sto per proporre, che si chiamano i Mohammad, che sono un gruppo greco, ha fatto 4 dischi, mi pare, quasi tutti usciti per Antifrost, che è una etichetta nota sullo sperimentalismo e sull'elettronica, e fondamentalmente sono un gruppo che si avvicina all'ambient, al dark ambient, ma in una maniera molto personale, per cui per esempio, come in questo disco, ma ce ne anche in altri, vengono usati degli strumenti classici come le viole, violoncelli, così, filtrati da computer e altre macchinette, riescono a creare una sorta di ambient che è molto più materico rispetto ad altre proposte esclusivamente sintetiche, per cui appunto i suoni un po' classici, i suoni del passato, si miscelano con le elaborazioni del presente, e per questo fanno parte di questa raccolta Old Ages, proposta appunto in questa trasmissione di 8 Hz di Radio Wombat. Il pezzo è tratto dal primo disco, che si chiama Roto Vildbomma, e il pezzo si chiama Vildbomma. Loro sono greci, si chiamano Mohammad e suoneranno a Pistoia al Bruma Festival a ottobre, quindi ricercateli se vi piacciono. A dopo. Thank you. Stress lo suoneranno prestissimo a ottobre a Pistoia al Prima Festival. Per chi è interessato, insomma, si informi sulla data, il giorno e quant'altro. E adesso è importante che è giunta l'ora di parlare un po' di un altro strumento particolarissimo e anzianotto, più che altro del periodo barocco, che è la viola da gamba, che è uno strumento differente appunto dalla viola, ha un'impostazione diversissima, si suona con l'archetto, ma anche l'archetto viene suonato in un modo diverso, quasi anche pizzicandolo per raggiungere certi tipi di suoni sulle corde. La viola da gamba appunto ha avuto la massima espansione tra il 1650 e il 1750. All'inizio era a 6 corde, ma c'erano anche esempi di 4, fino a che gli è stata aggiunta la 7ª corda, cioè una corda ancora più bassa, per cui si sono dei fendenti proprio di basso veramente notevoli. Ha quindi un range di frequenze abbastanza ampio e anche un discreto volume. Perché so queste cose? Perché finalmente dopo 7 anni sono riuscito ad andare al Festival della Viola da Gamba, credo l'unico in Italia, che viene tenuto a Gerfalco ogni estate, è organizzato da Alessandro Pierini, che appunto è diventato ormai un espertissimo in materia, che saluto tanto. E quando ho visto quella cosa l'ho trovata veramente fantastica. Era un duo in cui c'era Paolo Biordi alla viola da gamba, che credo sia anche o sia stato il direttore del conservatorio a Firenze, e Andrea Pierusi di Bologna, clavicembalo, anche lui un personaggio molto noto nell'ambiente puramente classico. E hanno suonato tra le cose anche vari pezzi di Messier de Saint-Colombe, che è praticamente forse il più rappresentativo sulle composizioni appunto di viola da gamba. Abbiamo poche notizie veramente su di lui, solo che è vissuto tra il 1640 e il 1700 circa. Credono che abbia fatto solamente concerti privati a casa. Le trascrizioni non sono mai state stampate, per cui insomma è stato anche molto difficile reperire questi grandi tesori musicali. Lui introdusse la 7ª corda. Adesso appunto vi faccio ascoltare una suite per viola da gamba, proprio tratta da quello che è stato possibile trovare di scritto di questo Messier de Saint-Colombe, francese ovviamente. Ve lo metto, buon ascolto, secondo me è proprio una piccola perla. Thank you. Questo è il suono della viola da gamba e un po' delle composizioni appunto di del personaggio Monsieur de Saint-Colombe. Ovviamente non so chi l'ha eseguito, perché è un pezzo che ho trovato online e non c'era scritto nulla, ma tra quelli che erano disponibili mi sembrava quello più carino. Allora vi ho messo questo. Vi ricordo che venerdì al Next Emerson c'è un concerto del collettivo Nuovi Rumori, è tutta roba tra l'hardcore, il punk e il trashcore. Ci sono i Crippled Fox, i Satanic Youth, gli Abortive, i Lulu e i Carlos Dunga, che sono de Firenze. Andando avanti, andiamo verso la fine del programma. Ovviamente era quasi doveroso parlare dei Dead Can Dance, che sono un duo australiano formato da due, lei più che altro Lisa Gerrard, cantante, e l'altro signore si chiama Brendan Perry, che anche lui è cantante ma suona anche la chitarra e altri strumenti. Comunque sono stati importanti perché hanno iniziato nell'81, il primo disco è dell'81, e hanno sempre mischiato in quel caso alla New Wave, perché nell'81 c'era quello come voglia di fare, e miscelandola appunto alla world music di qualsiasi regione del mondo, hanno però con uno stile sempre unico e proprio. Hanno fatto nel corso degli anni hanno marcato di più la tendenza a essere unici e più world music rispetto alla loro partenza. Hanno fatto di tutto, da dischi di musica percussiva e tribale africana a suoni medio orientali in altri dischi, usando tantissimi tipi di strumenti appunto delle nazioni, delle zone geografiche che gli interessavano, così come tanti musicisti appunto ingaggiati per far suonare la cosa nel modo migliore possibile. Il pezzo che vi metto è particolare perché è tratto dal secondo disco, che quindi era ancora tra le prime cose che facevano loro. Il secondo disco, appunto, si chiama Spleen and Ideal, che uscì nell'85 per la 4D. Il pezzo si chiama Ascension, è la seconda traccia del disco. La cosa che mi incuriosiva di questo brano è il fatto che utilizzino una sorta di banda di ottoni che rende appunto il brano cupo, ma con una timbrica acustica, per cui insomma, ci stava bene. Ve lo voglio far ascoltare, Dead Can Dance, Ascension. Di un progetto di Steve Von Till che si chiama Harvest Man, il progetto, e concludiamo la puntata proprio sempre con Steve Von Till che suona, ma a sto giro proprio nella sua band storica, ovvero i Neurosis. Appunto, cioè, se non la conoscete è un po' assurdo, comunque è un gruppo post-metal o post-hardcore, chiamatelo come cavolo vi pare, post doom, post tutto, che è stato tra, è ancora tra i più significativi da almeno dagli anni 80, dagli anni 90 in poi, insomma. Il pezzo che conclude appunto la serata, la puntata che dedicata appunto ai suoni antichi nella musica contemporanea di ogni matrice, dal punk a roba più forbita. Il pezzo si chiama Purify, dal disco True Silver in Blood del 96, che è stato il disco un po' che li ha fatti conoscere un po' in tutto il mondo, tra i più belli che hanno fatto. Si noterete sul finale, sul lungo finale, che entrerà una cornamusa renderà il tutto più drammatico e anche severo, diciamo. Io vi lascio con loro, buon ascolto, il pezzo è un po' lunghetto, quindi potete veramente sdraiarvi e godere della loro anche violenza e delle loro capacità ambientali e di riprodurre nel cervello qualcosa che è magnifico. E noi ci troviamo la settimana prossima sempre su Radio Wombat, e questo è 8 Hertz. Buonanotte. Thank you.